Ore 10.36 di sabato 17 febbraio 2024. Visto che sto uscendo dal macro, credo che forse anche il macro di adesso, del 2024, meriti un commento, che non è naturalmente un bilancio, qui non c'è né il tempo né la profondità per trarre bilanci. È più la somma di una serie di cronache che può venire fuori da queste registrazioni. Ecco, però mi sembra che complessivamente la gestione, la direzione artistica di Luca Lopinto, che insomma giovane curatore di grandissimo talento secondo me e anche importanti esperienze pregresse, pensiamo alla Kunsthalle di Vienna eccetera, intanto si porta dietro un po' l'obbligo di rimanere gratuito, che rappresenta un po' un vincolo. L'obbligo nasce dall'esperienza storica del macroasilo di De Finis, che ha posto un precedente, mi verrebbe da dire, volontariamente imbarazzante, rivendicando appunto l'appartenenza del macro alla dimensione dello spazio pubblico, pubblico per chi lo frequenta, pubblico per gli artisti e pubblico anche per l'amministrazione che dona alle persone, agli artisti, ai creativi in generale, questa infrastruttura. Ponendole le regole, ma insomma, senza un grande approccio curatoriale, per scelta naturalmente. Con Lopinto bisogna fare un po' la quadra tra questo precedente e la volontà e forse anche la necessità di tornare ad una curatela che ha portato, diciamo, dei risultati su cui possiamo anche spendere parole, diciamo, controverse, nel senso che da un lato c'è questa sensazione di un'arte contemporanea di fascia, diciamo così, quasi inaccessibile al pubblico e che quasi volontariamente non intenda parlare al pubblico perché ritiene il dialogo con le persone persino quasi una limitazione, un vincolo in sé. Ed è un po' ipocrita perché ci sono tantissimi altri vincoli che rendono questo tipo di arte tutt'altro che libera. E quindi quello che si vede è comunque il frutto dei grandi trend, cioè di ciò che in questo momento funziona. Però se uno ha questo filtro nella propria testa, entrando, riesce comunque ad apprezzare le cose molto, invece molto valide che abbiamo visto, soprattutto negli ultimi tempi, la retrospettiva di Emilio Prini, per esempio, che è stato uno dei pionieri dell'arte concettuale, dell'arte anche povera, possiamo dire è stata davvero molto molto molto interessante nello spazio più grande del macro. Ma insomma anche adesso ci sono cose da vedere, c'è questa dimensione editoriale, c'è questa volontà di presentare il museo come un magazine, che è comunque interessante perché, diciamo, in modo molto trasparente mostra il museo per quello che è tornato ad essere, e cioè un riquadro, mi verrebbe da dire un frame, con dietro un pensiero editoriale anche, il che va benissimo, purché naturalmente chi lo attraversa ne sia consapevole. E comunque è un luogo al quale io rimango molto affezionato e dove mi piace tornare. C'è in particolare un'opera di Beatrice Marchi che fa parte della zona retrofuturo che ogni volta mi procura dei brividi, non credo in sé per il suo valore, che è sicuramente apprezzabile, ma il motivo è che è praticamente la prima opera d'arte alla quale sono stato esposto dopo la riapertura dei musei, dopo la pandemia, e quindi la leggo tantissimo a quel momento, che è stato uno spartiacque per tutti noi, che ti dimostra, insomma, tante volte quello che vedi non ha molto a che fare col giudizio artistico, ma con le nostre vite personali, è quella famosa attribuzione di senso individuale tanto sottovalutata rispetto invece alla pretesa di dover sempre attribuire significati universali all'arte e a qualsiasi contenuto che incontriamo.